terrestre abitante nella terza parte del mondo verestante. Porto le mutande, mangio in abbondanza, tengo una bella panza. C'ho il colesterolo, trigliceridi e il diabete. La spesa faccio in rete, mangio i scatolati, surgelati, transigenici e insaccati. Pesci d'ogni razza, carne di mucca pazza. Sono un non violento, per nulla mi spavento e faccio con devozione la mia buona azione per i bimbi che ha fame nell'altro reame. Sono un terrestre che vive di bassezza nel mondo dell'agiatezza, produce immondezza che con grande certezza so che sta schifezza al fin mi ucciderà, mi ucciderà. Mi odio e odio i ricchi, gli agnelli, i Berlusconi, i ricchi paperoni di casa nostra e fuori, i Billy Gates, i Virgi, quelli dell'ultima ora, quelli che finanziano la ribellione sonora. Quelli dei palchi in piazza che cantano l'altra razza, i moderni garibaldi pieni di miliardi. Quelli del profitto uguale al delitto. Quelli della ricchezza, la ricchezza finanziaria che fa morire di fame la gente proletaria e ci danno a noi la morte agiata della grande abbuffata. Sono un terrestre, abitante qua, nel mondo benestante che porta le mutande, in 50 metri quadri con 3 televisori, in cucina, soggiorno, a letto, persino in gabinetto. Segreteria parlante, computer stampante, sveglietta luminosa, videoregistratore, elettromassaggiatore, bidone bianco verde, grigio trasparente, umido in canna, non ci capisco niente. Riciclo l'immondezza, produco ancora schifezza, c'ho il colesterolo, trigliceridi e il diabete, il fegato marcito, ma sono fortunato. Sei fortunato, appartieni al mondo ricco, così mi hanno detto. Sono fortunato, fortunato e ben protetto dall'America imperiale con lo scudo spaziale. Sarò un terrestre.